Capitolo 21. A parte Lover's Vows, il ritorno di Sir Thomas produsse un evidentissimo cambiamento nell'andamento della vita familiare. Sotto la sua guida, il clima di Mansfield mutò totalmente. Scomparsi alcuni membri della compagnia, spento il brio di molti altri, prevalsero, contrariamente al più recente passato, la monotonia e l'umor nero. Una serie di tetre riunioni di famiglia, raramente animate, anche con la canonica vi erano scarsi contatti. Sir Thomas, in genere restio a contrarre nuove amicizie, si sentiva specialmente contrario a quel tempo a prendere qualsiasi impegno con estranei, eccetto che in un unico caso, quello dei Rushworth, l'unica aggiunta alla sua cerchia intima che egli fosse propenso a ricercare. Edmund non si meravigliava che tali fossero i sentimenti del padre, né aveva rimpianti, tranne che per l'esclusione dei Grant. Ma loro, osservò parlandone a Fanny, hanno un diritto, è come se ci appartenessero, se facessero parte di noi. Desidererei che mio padre fosse più conscio delle grandissime attenzioni che hanno avuto per mia madre e per le mie sorelle mentre lui era assente. Temo che si sentano trascurati, ma il fatto è che mio padre quasi non li conosce. Si erano stabiliti qui da meno di 12 mesi quando lui partì dall'Inghilterra. Se li conoscesse meglio, valuterebbe la loro compagnia come merita di esserlo, visto che sono proprio il genere di persone fatte per piacergli. Qualche volta manchiamo di animazione, standocene così confinati fra noi. Le mie sorelle sembrano depresse e Tom non è certo a suo agio. La presenza del dottore e di Mrs. Grant ci animerebbe e farebbe trascorrere la serata più lietamente anche per mio padre. Credi? Disse Fanny. Secondo me lo zio non gradirebbe nessuna aggiunta alla famiglia. Penso che apprezzi proprio la calma alla quale tu accenni e che la quiete della sua cerchia familiare sia tutto quanto gli ci vuole. E non mi sembra che noi si sia più seri di quanto lo fossimo in passato, voglio dire prima che lo zio andasse all'estero. Fin dove mi posso ricordare è sempre stato così. Non ci sono mai state molte risate in sua presenza. O se c'è una qualche differenza, non è più di quanto un ritorno dopo così lunga assenza tenda a produrre a tutta prima. Non può non esserci una specie di timidezza, ma non ricordo che in passato le nostre serate siano state particolarmente vivaci, tranne quando lo zio si trovava in città. Non credo che le serate dei giovani lo siano, quando le persone cui vanno il loro rispetto e la loro riverenza sono in casa. Credo che tu abbia ragione, Fanny. E rispose Edmund dopo un istante di riflessione. Penso anch'io che le nostre serate siano tornate ad essere come erano, e non che abbiano piuttosto assunto un nuovo carattere. La novità consisteva nel brio, nella vivacità, eppure quanto è forte l'impressione che anche poche settimane possono lasciare. Avevo la sensazione di non avere mai vissuto come viviamo ora. Suppongo di essere più grave degli altri, disse Fanny. A me le serate non sembrano lunghe. Mi piace ascoltare lo zio quando parla delle Indie occidentali. Potrei ascoltarlo per un'ora di fila. Mi distrae più di quanto abbiano fatto molte altre cose, ma ho idea di non essere come gli altri. E perché mai hai questa idea? Sorridendo, disse Edmund. Vuoi che ti si dica che non sei come gli altri in quanto sei più saggia e discreta? Ma quando tu o qualcun altro ha mai ricevuto un complimento da me, Fanny? Va da mio padre se vuoi sentirti complimentare. Ti soddisferà. Va da tuo zio e chiedigli cosa pensa di te. E sentirai lodi bastanti. E benché siano specialmente rivolte alla tua persona, devi adattartici e confidare che con l'andare del tempo egli vedrà altrettanta bellezza nella tua mente. Un simile linguaggio era così nuovo per Fanny che ne rimase tutta imbarazzata. Tuo zio ti trova molto graziosa, cara Fanny. Proprio così. Chiunque, eccetto me, avrebbe sfoggiato una frase più galante e chiunque, eccetto te, si risentirebbe per non essere stata ritenuta molto graziosa per il passato. Ma fatto sta che tuo zio, che non ti aveva mai ammirata prima d'ora, adesso lo fa. Il tuo colorito è talmente migliorato e hai acquistato un così bel portamento e la tua figura. No, Fanny, non ti schermire, si tratta solo del giudizio di uno zio. Se non puoi sopportare l'ammirazione di uno zio, che ne sarà di te? Devi veramente farti forza e accettare l'idea che ormai vale la pena di guardarti. Su, via, cerca di non angustiarti per il fatto che stai diventando una donna avvenente. Oh, non parlare così, non parlare così! Esclamò Fanny, sconvolta da emozioni più profonde di quanto egli supponesse. Ma al vederla così smarrita, Edmund abbandonò l'argomento e si limitò ad aggiungere con tono più serio: Tuo zio è portato ad apprezzarti sotto ogni aspetto. Solo vorrei che tu parlassi di più con lui. Sei un membro troppo silenzioso nella nostra cerchia serale. Ma parlo con lui più di quanto fossi solita prima. Sono certa di farlo. Non mi hai sentita ieri sera fargli domande sulla tratta degli schiavi? Ti ho sentita e ho sperato che l'argomento fosse portato avanti dagli altri. Avrebbe fatto piacere a tuo zio sentirsi interrogare ulteriormente in proposito. E io desideravo tanto farlo, ma vi era un tale silenzio, e mentre le mie cugine sedevano senza dir parola, non mi piaceva. Pensavo che avrei dato l'impressione di volermi mettere in evidenza, a loro spese, dimostrando quella curiosità e quell'interesse per le sue dirette informazioni che lui certo desiderava riscontrare nelle sue figlie. Miss Crawford aveva proprio ragione in quello che ha detto di te l'altro giorno, che tu quasi sembri avere tanta paura di essere notata e lodata quanto le altre donne temono di essere trascurate. Parlavamo di te alla canonica e queste furono le sue parole. Ha un grande discernimento. Non conosco nessuno che intuisca meglio il carattere della gente. Per una donna così giovane è una cosa notevole. Lei certamente ti capisce meglio di quanto faccia la maggior parte di noi, che ti conosciamo da tanto tempo. E di alcuni altri, come ho potuto accorgermi da alcune osservazioni che le sono sfuggite a caldo, potrebbe definire molti tratti con lo stesso acume, se la delicatezza non glielo impedisse. Mi chiedo cosa pensi di mio padre. Devi ammirarlo molto come uomo di bell'aspetto, di modi molto raffinati, dignitosi e forti, ma forse, avendolo visto così raramente, il suo riserbo può farlo apparire un po' scostante. Se potessero trattenersi molto insieme, sono sicuro che si piacerebbero a vicenda e gli gusterebbe la sua vivacità e lei ha ingegno bastante per dar valore alle doti intellettuali di mio padre. Vorrei che si incontrassero di frequente. Spero che Miss Crawford non supponga che vi sia una qualche speciale avversione da parte di lui. Oh, sa bene di quale considerazione goda presso voi tutti, disse Fanny con un mezzo sospiro, per temere qualcosa del genere. E il fatto che Sir Thomas in un primo momento desideri intrattenersi solo con la sua famiglia è talmente naturale che Miss Crawford non può inferirne niente di scortese. Fra un po' di tempo penso ci incontreremo nuovamente come prima, facendo le dovute concessioni alla diversa stagione. Questo è il 1º ottobre che ha passato in campagna da quando era bambina, perché certo Tunbridge e Cheltenham non possono essere definiti campagna. Novembre poi è un mese ancora più triste e mi rendo conto che Mrs. Grant teme che la sorella trovi Mansfield troppo noioso mano a mano che entriamo nell'inverno. Fanny avrebbe potuto aggiungere molte cose alle parole di lui, ma trovò più saggio tacere e ascoltare senza commenti l'elenco delle molte risorse di Miss Crawford, delle sue doti, del suo spirito, del suo prestigio sociale, dei suoi amici, per tema di lasciarsi andare a qualche osservazione apparentemente scortese. La gentile opinione che Miss Crawford aveva di lei le meritava perlomeno una grata indulgenza e così incominciò a parlare di qualcos'altro. Domani, credo, lo zio pranzerà a Sotherton e anche Mr. Bertram. A casa saremo proprio in numero ristretto. Spero che allo zio Mr. Rushworth continuerà a piacere. È impossibile, Fanny. Dopo la visita di domani per forza gli piacerà meno, poiché trascorreremo 5 ore in sua compagnia. Avrei timore della stupidità che verrà in luce nel corso della giornata, se poi non dovesse seguire un male ancora peggiore, l'impressione che inevitabilmente lascerà in Sir Thomas. Non potrà ingannarsi più a lungo. Mi spiace per tutti loro e vorrei proprio che Rushworth e Maria non si fossero mai incontrati. E in effetti, Sir Thomas era sempre più deluso in proposito. Tutta la sua buona volontà verso Mr. Rushworth, tutta la deferenza di Mr. Rushworth verso di lui non poterono impedire che gli discernesse ben presto parte della verità, che Mr. Rushworth era un giovane di livello mentale inferiore, tanto ignorante nel campo degli affari quanto in quello dei libri, dalle opinioni generalmente instabili e privo della capacità di rendersi conto delle proprie deficienze. Si era aspettato un genero ben diverso e, incominciando a sentirsi perplesso sul conto di Maria, tentava di capirne i sentimenti. Non gli ci volle molta osservazione per concludere che nella migliore delle ipotesi ella provava solo indifferenza per il fidanzato. Il suo modo di comportarsi verso Mr. Rushworth era distratto e freddo, non poteva piacerle, non le piaceva. Sir Thomas prese la risoluzione di parlarle seriamente. Per quanto vantaggioso potesse essere quel matrimonio, e nonostante la lunga durata e la pubblicità del fidanzamento, la felicità della figlia non doveva essere sacrificata. Forse Mr. Rushworth era stato accettato dopo una conoscenza troppo breve, e conoscendolo meglio, ora ella si pentiva della propria decisione. Sir Thomas le rivolse con affetto solenne, le disse i suoi personali timori, si informò dei desideri di lei, la implorò di parlargli apertamente e sinceramente e le assicurò che qualsiasi inconveniente sarebbe stato affrontato e la relazione troncata se si sentiva angustiata prospettandosene gli sviluppi. Egli avrebbe agito in suo nome e l'avrebbe liberata da ogni impegno. Per un attimo, mentre l'ascoltava, Maria lottò con se stessa, ma solo per un attimo. Quando suo padre ebbe finito, fu in condizione di dare una risposta immediatamente, con decisione, senza apparente agitazione. Gli era grata per la sua grande sollecitudine, per il suo affetto paterno, ma egli si ingannava del tutto se pensava che lei avesse il minimo desiderio di rompere il fidanzamento, o fosse consapevole di un qualsiasi mutamento di opinione o di inclinazione da quando si era impegnata. Nutriva la più alta stima per il carattere di Mr. Rushworth, per le sue tendenze, e non poteva avere alcun dubbio circa la felicità che l'attendeva con lui. Sir Thomas fu soddisfatto, troppo prontamente soddisfatto, forse, per spingere l'indagine più a fondo, come il suo buon senso gli avrebbe dettato se si fosse trovato a consigliare un altro. Era un parentado al quale non avrebbe rinunciato senza rincrescimento, e ragionò così. Mr. Rushworth era abbastanza giovane per migliorare. Mr. Rushworth, a contatto con un buon ambiente, doveva migliorare, sarebbe migliorato. E se fin d'ora Maria poteva parlare con tanta sicurezza della sua futura felicità con lui, e parlava certamente senza il preconcetto, senza la cecità dell'amore, le si doveva prestar fede. Probabilmente i suoi sentimenti non erano dei più ardenti, né lui aveva mai pensato che lo fossero, ma gli agi che l'aspettavano non sarebbero stati minori per questo. E se poteva fare a meno di desiderare nel marito un personaggio brillante, di punta, certamente tutto il resto era a favore di quel matrimonio. Una giovane donna di buona indole che non si sposava per amore, generalmente si attaccava ancor più alla famiglia di origine e la vicinanza tra Sotherton e Mansfield avrebbe naturalmente tenuto lontane le tentazioni maggiori e con ogni probabilità promesso un continuo susseguirsi dei più gentili e innocenti svaghi. Questo era il genere di ragionamento di Sir Thomas, lieto di sfuggire agli imbarazzanti fastidi di una rottura, alla meraviglia e alle supposizioni, alle critiche che l'avrebbero accompagnata, lieto di confermare un matrimonio che gli avrebbe procurato un così considerevole aumento di rispettabilità e di influenza, e lietissimo di presupporre nell'indole della figlia tutto quanto vi era di più favorevole all'attuarsi di tali speranze. Per Maria il colloquio si chiuse in modo altrettanto soddisfacente. Era in una tale condizione di spirito che l'aver fissato il proprio destino al di là di ogni possibile ritrattazione le dava sollievo. Era contenta di essersi legata di nuovo e indissolubilmente a Sotherton, di essersi sottratta al pericolo di accordare a Crawford il trionfo di essere lui a determinare le sue azioni e a distruggere le sue prospettive. E ritirandosi con altera risoluzione, decise di comportarsi in avvenire con maggior prudenza nei riguardi di Mr. Rushworth, affinché suo padre non si sospettisse di nuovo. Se Sir Thomas si fosse rivolto alla figlia 3 o 4 giorni dopo la partenza di Harry Crawford, quando il primo tumulto dei suoi sentimenti non si era ancora acquietato, prima che lei avesse rinunciato alla speranza di una resipiscenza di Harry, o avesse presa la ferma risoluzione di sopportarne il rivale, forse la sua risposta sarebbe stata diversa. Ma dopo che altri 3 o 4 giorni furono trascorsi senza che si sentisse parlare del ritorno di lui, senza una lettera, senza un'ambasciata, senza un segno di intenerimento, senza la speranza che dalla separazione potesse derivare un qualsiasi vantaggio, la sua mente si fece abbastanza fredda da cercare tutto il conforto che l'orgoglio e la vendetta potevano darle. Harry Crawford aveva distrutto la sua felicità, ma non lo doveva sapere. Non doveva distruggere la sua reputazione, la sua apparenza, la sua prosperità. Per Non doveva pensare che lei se ne stesse immalinconita nel ritiro di Mansfield, rifiutando per amor suo Sotherton e Londra, indipendenza e splendore. L'indipendenza le era più necessaria che mai, e a Mansfield ne sentiva più che mai la mancanza. Si faceva sempre più restia a sopportare i limiti imposti dal padre. La libertà che l'assenza di lui le aveva consentito le era adesso assolutamente indispensabile. Doveva sfuggire a lui e a Mansfield al più presto possibile, trovar conforto al suo spirito ferito nella ricchezza e nel prestigio sociale, nel trambusto e nelle attività della vita mondana. Era assolutamente decisa e non cambiò risoluzione. Per simili sentimenti, ogni indugio, perfino quello imposto dai preparativi di una cerimonia fastosa, sarebbe stato un male. E Mr. Rushworth non avrebbe potuto sollecitarne la celebrazione con più impazienza di lei. Né a Maria occorreva una lunga preparazione spirituale, era pronta al matrimonio. Lo era perché detestava il focolare domestico, il freno impostole, la tranquillità quotidiana, perché sentiva dentro di sé la sorda sofferenza di un amore deluso e il disprezzo per l'uomo che stava per sposare. Il resto poteva aspettare. Alle nuove carrozze e ai mobili nuovi si sarebbe provveduto più tardi, a Londra, in primavera, quando il suo gusto e la sua volontà avrebbero avuto via libera. Essendo così concordati i punti più importanti, fu presto evidente che pochissime settimane sarebbero state sufficienti per i preparativi che dovevano precedere la cerimonia. Mrs. Rushworth era prontissima a ritirarsi e a cedere il posto alla giovane fortunata che il suo diletto figlio aveva scelta, e ai primi di novembre traslocò, completa di cameriera personale, domestico e cocchio, come si addiceva alla sua condizione di gentildonna vedova, per Bath, per farvi sfoggio, durante le sue serate mondane, delle magnificenze di Sotherton, godendone forse nell'animazione creata intorno a un tavolino da gioco quanto ne aveva goduto di persona. E prima della metà di quello stesso mese il matrimonio fu celebrato, dando a Sotherton una nuova padrona. Fu una cerimonia correttissima. La sposa era elegantemente vestita, le due damigelle d'onore lo erano anch'esse, ma come si conviene un po' meno. Il padre l'accompagnò all'altare, la madre tenne per tutto il tempo il flacone dei sali in mano, temendo di sentirsi sopraffatta dalla commozione. La zia tentò di piangere e le frasi di rito furono solennemente lette dal dottor Grant. Quando l'evento venne debitamente commentato dalle famiglie dei dintorni, non vi si trovò nulla da criticare se non che la carrozza che aveva condotto la sposa, lo sposo e Giulia dalla chiesa fino alla porta di Sotherton era la stessa di cui Mr. Rushworth aveva fatto uso nei suoi andirivieni durante gli ultimi 12 mesi. Per tutto il resto, l'etichetta che aveva governato l'intera giornata poteva sostenere con onore la più minuziosa indagine. Ecco, era tutto a posto e se n'erano andati. Sir Thomas provava tutto quanto un padre ansioso deve provare e sperimentava realmente molta dell'agitazione che sua moglie aveva temuto per sé, ma la quale era fortunatamente sfuggita. Mrs. Norris, felicissima di associarsi ai padroni di casa nel disimpegno dei doveri della giornata, trascorrendola al park per tenere alto lo spirito della sorella e bere alla salute di Mr. e Mrs. Rushworth, con l'aggiunta di uno o due bicchieri, era tutta gaudio e delizia. Lei aveva combinato il matrimonio, lei aveva fatto ogni cosa e nessuno avrebbe supposto, dal suo fiducioso trionfo, che avesse mai udito parlare in vita sua di infelicità coniugale o fosse menomamente conscia dell'intima disposizione di spirito della nipote educata sotto i suoi occhi. Il piano della giovane coppia era di procedere, dopo pochi giorni, fino a Brighton e di prendervi in affitto una casa per alcune settimane. Tutte le località mondane erano nuove per Maria e Brighton è tanto animata in inverno quasi quanto in estate. Quando poi la novità del divertimento vi si fosse esaurita, sarebbe stato tempo per penetrare nella più vasta sfera di Londra. Giulia sarebbe andata con loro a Brighton. Da quando la rivalità era cessata, le due sorelle avevano gradualmente ritrovato molto della buona intesa di un tempo ed erano perlomeno in termini abbastanza amichevoli da far sì che ciascuna di loro fosse estremamente lieta di trovarsi in compagnia dell'altra in quell'occasione. Qualsiasi compagnia, purché non fosse quella di Mr. Rushworth, era di fondamentale importanza per la sua sposa. E Giulia, del pari smaniosa di novità e di svago, anche se conquistati attraverso prove meno ardue, poteva proprio per questo adattarsi ad una posizione subordinata. La loro partenza produsse un altro cambiamento sensibile a Mansfield, un vuoto che, per essere colmato, richiese un certo tempo. Il circolo familiare si restrinse sensibilmente e benché negli ultimi tempi le signorine Bertram non avessero contribuito granché alla sua gaiezza, non si poteva non risentirne la mancanza. Perfino la madre ne soffrì, e quanto di più ne soffrì la tenera cugina, che vagava per la casa e le pensava e si preoccupava per loro con una intensità di affettuoso rimpianto che esse non avevano mai fatto molto per meritare.